Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti ragazzi, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia del Bise Falzoni, redazione. Ieri sera Tiki Taka alla Padula, sentiamo subito cosa ha detto. Beh, un momento molto positivo, ecco, però amo molto ricordare il momento precedente a questo, che è stato secondo me ancora più importante. Il momento dove comunque non riuscivo a giocare, arrivavo degli infortuni e per tanti comunque non ero da Milan. Che si impara di più dalla sofferenza. Esatto, e in quel preciso istante ho capito che doveva iniziare il mio campionato, mi ha dato ancora più sicurezza e poi è venuto fuori tutto questo. Nell'intervista di Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao, come va? Che impressione ti ha fatto il guerriero La Padula? Ragazzo carino, simpatico, insomma l'avevo visto un paio di volte post partita e è stato molto, molto carino, molto divertente. Insomma, è sempre bello quando si riesce a creare un po' di, no, un po' di dialettica, però serena, tranquilla. Poi si è trovato in mezzo a tutta la bufera invece sul caso Lulic, però. Ma va, però, davvero? Sì, però, ma sai, non se l'aspettava, non se l'aspettava nessuno. Voto a Cruciani? Ma io sono d'accordo con Cruciani, io penso che Lulic abbia detto una gran cazzata di francese e penso che la cosa la si doveva risolvere subito. Cioè, io fossi stato in due nell'ufficio stampa della Lazio, partendo dal presupposto della buona fede, ovviamente, perché poi se non c'è la buona fede allora facciamo così. Fossi stato in lui, sarei andato 5 minuti dopo, avrei detto. Esatto, 5 minuti dopo valgono di più, mi sembra un tempo eccessivo. Ma torniamo dopo su questo argomento, perché si infiammano all'improvviso i tifosi dell'Inter, perché il Ciolito, figlio del Ciolo, ha detto che il papà ha detto che arriverà ad allenare l'Inter. Así que imagínate si hablo, creo que es normal que mi hijo, mi hermana, mi mujer, mi papá sepan de que algún día voy a dirigir al Inter. Así que no es noticia y no es novedad. Arriverà, prima o poi. Quando non si sa. L'ha detto anche lui, però anche il papà, anche il Ciolo, sì. Solo il Ciolito. Bisogna capire, nel senso che la sensazione è che sia qualcosa di un pochino più concreto rispetto a una corrispondenza, diciamo, di amorosi sensi che esiste sicuramente fra Inter e Ciolo, così come esiste anche con la Lazio, anche alla Lazio il signore rimane molto legato, o come per esempio è esistita fra Ancelotti e la Roma. Ancelotti mille volte ha detto che un giorno venire alla Roma, e poi questa cosa non, come allenatore, non si è ancora concretizzata. Qui c'è la sensazione che sia una cosa un pochino più precisa. Si parla del 2018, staremo a vedere. La sensazione è che chiaramente adesso la voce può essere utile per ricreare un po' di entusiasmo, e l'Inter ne ha maledettamente bisogno in questo momento, però sarebbe, se diventasse una voce un po' troppo forte, potrebbe anche un po' minare, destabilizzare, sono d'accordo. Appena arrivato, con risultati fin qui così, ma che fa merita di potersi giocare questa chance al 100%. Altro argomento di cui parleremo. Allora, vigilia di Benfica-Napoli, stadio D'Aluzzi. Il Napoli deve uscire da quel santuario del calcio europeo, anche se l'avversario non è un mostro a tre teste, come dimostrato all'andata, con almeno un pareggio. Sarri e Hamsik. Venendo allo stadio è stupendo giocare stadi così, ma penso che l'abbiamo fatto pure a Kiev e pure a Istanbul, abbiamo giocato due partite alla pari mostrando il nostro valore. Penso che ormai la squadra si sta abituando a questi livelli e penso che su questo punto di vista non ci saranno problemi. Sarà difficile che il finale sia un finale di gestione, perché questa è una partita in cui una delle due squadre negli ultimi 20 minuti andrà a prendere rischi enormi e di conseguenza li farà prendere anche agli avversari. Quindi molto probabilmente sarà una partita in cui l'aspetto tattico può contare per 70 minuti, poi negli ultimi 20 può venire fuori una partita completamente diversa in cui la lucidità, la determinazione e il carattere possono essere molto più importanti dell'aspetto tattico. Leggo un messaggio che mi è arrivato. A proposito, invito gli ascoltatori, tutti convocati, 800240024, mentre messaggio 349-238-6666, per il nostro calcio è fondamentale che Napoli ci dia una soddisfazione in Coppa. Temo però che non abbia le palle, solo a parole Sarri sembra un leone. Questo è un messaggio non firmato. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, come vedrai la partita? Con quali occhi, con quali scaramanzie, con quale dose di fiducia? Ma la fiducia sarei bugiardo a dire che non c'è, nel senso che secondo me anche all'andata Napoli ha dimostrato di essere all'altezza del Benfica. Si va in uno stadio complicatissimo, si gioca la partita che nessuno avrebbe voluto giocare, perché sarebbe bastato un gol in fuorigioco clamoroso non assegnato per parlare di altro. Oggi sarebbe pure bastato che il Benfica non impazzisse in Turchia. Sì. Però detto questo, insomma, c'è fiducia, ci saranno le solite scaramanzie, anzi raddoppiate. In questo senso ci tenevo che Pardo potesse dirmi che il Napoli perderà stasera, ci terrei molto, perché ci terresti molto. Napoli, per un amico questo è altro, no? che bastardo. No, beh, lo faccio per lui, siamo tutti insomma, più che mai con la sciarpa, perché veramente sarebbe, a parte che il Napoli se lo merita. Quindi dillo, il Napoli questa sera perderà. Dillo. Sì, sì, stasera perde, caro Sollazzo. Stasera perde. Come sto andando? Va bene? Io ti voglio bene e avrai più cene pagate se dovessi andare come è andato. Magari napoletane. Napoletane romane. Ovvio. Un mix che non tagliamo mai. No, però io penso che a parte tutto il Napoli, per quello che ha fatto, per il percorso che ha avuto, sicuramente meriti la qualificazione. È chiaro che hai detto bene tu. Quello è stato l'episodio chiave. Io ho il gioco contro il Besiktas in casa. Qualche piccola colpa, secondo me, al di là del fatto che il gol era nettamente fuori gioco, nella gestione di quella partita il Napoli se non ce l'ha avuta, forse la tentazione, ricorderete, nella terza giornata di poter scrivere il discorso, di poter quasi stabilire un record, quello della qualificazione dopo tre gare, e lì si è un po' disunito. Poi in Turchia non è andata male, e poi è successo l'impazzimento, come dicevi tu, del Benfica. Lo diciamo, qualcuno aveva detto che era un biscotto, ma assolutamente non era un biscotto, si sarebbe qualificato, invece è ancora tutto da giocare, quindi è stata veramente uno qualcosa di clamoroso. Il Besiktas sta all'aria della squadra che è lì sempre pronta per uscire, che invece si è sempre aggrappata con forza. Però io anch'io sono ottimista, ma rispetto alla scaramanzia, e quindi ti dico che perde sicuro. Ti voglio bene, Pier, ti voglio bene. No, che siparietto triste, ragazzi. Esatto. Senti, prima di salutare Sollazzo, che poi lascio andare ai riti scaramantici, sei d'accordo con l'ascoltatore che scrive: temo che non abbia le palle il Napoli per uscire da questa partita, da questa situazione? Ma guarda, sicuramente è una prova di maturità. Secondo me le ha, nel senso che è una squadra che ha dimostrato in questi due anni di poter fare grandi cose. A me fa un po' più paura, devo dire, il Sarri di Napoli Dinamo Kiev, cioè mi è piaciuto molto quello di ieri, che dice ho la faccia da culo, scusate, l'ha detto lui quindi lo ripeto, di pensare che ci saranno partite più importanti di queste, che quello di Napoli Dinamo Kiev, che dice una cosa demenziale, cioè quella che nel riscaldamento abbiamo saputo che non sarebbe servito a nulla. Peccato che non è vero, perché insomma, avendo vinto ti saresti tenuto la possibilità del pareggio del Besiktas a Kiev, certo, che ora non hai più. Quindi quel tipo di inesperienza, cioè quel tipo di atteggiamento che porta a fare quelle dichiarazioni e quel tipo di understatement mi piacciono di meno. E ho paura di quei 20 minuti di cui lui parlava, perché effettivamente se andate a vedere il Napoli è forse l'unica squadra che non segna quasi mai negli ultimi minuti, che era invece una delle caratteristiche di Mazzarri. Ecco, vorrei che tirasse fuori il carattere. Secondo me le palle ce le ha, però le deve far vedere. Ecco. Va bene, ho molti messaggi. Stasera Napoli perde e il Besiktas pareggia, tutti a festeggiare, scrive un tifoso laziale. Moggi è vietato gufare, forza Benfica fino alla fine. Sei contento, Sollazzo? Ma guarda, che ti devo dire, non sono abbastanza abituato, no? Sì, ma al gufismo, ma non è odio, dai, è gufismo. Ognuno fa quello che vuole. Ma io devo pure essere onesto. Poi ci sono i tifosi della Juventus che ovviamente gufano perché incassano il malloppo del Napoli, poi ne parliamo anche con Berinazzo, eccetera, eccetera. Allora, che l'amministratore delegato della Juve, del Napoli, della Roma possa fare il ragionamento, ma che il tifoso si metta lì per un discorso a seguire aspetti come i tifosi, come dice una volta Verossi, sono diventati tutti commercialisti, sono diventati tutti amministratori delegati delle loro società. È chiaro che la Juve, lo sappiamo, se il Napoli non passa ha un bel vantaggio economico molto importante questa sera. però insomma secondo me se un tifoso della Juve comunque ha in simpatia il Napoli, ha in simpatia il calcio italiano, vorrei che ragionasse su questo. Poi detto questo al cuore non si domanda, è ovvio che se uno invece sta sulle scale del Napoli e vuole cuparlo, lo cupi, non è che non possiamo essere noi, chi siamo noi per giudicare? Ognuno ha detto qualcosa di importante. Però sarebbe bello, sarebbe positivo per il calcio italiano e sarebbe secondo me anche utile, oltre che per il calcio italiano e per il ranking, sarebbe anche meritato. Ma sì, dai, avere comunque due squadre alla fine dell'inverno, questo è chiaro, in Champions League. Boris, buon divertimento. Cosa vuoi che ti dica? Bocca al lupo. Crepi. Cura la balena. Quello che vuoi. ti dico quello che vuoi. Ciao Boris, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Traffico. Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, rapido riassunto di Tiki Taka di ieri sera sul caso Ljulic e dintorni. Ma sì, riassunto, c'erano ovviamente posizioni discordanti come sempre nella vita, nella dialettica, e questo è positivo perché ovviamente vuol dire che erano rappresentati punti di vista e sensibilità diverse. Io personalmente sono d'accordo con Cruciani e con Buchini, penso che sia stato un errore, una vera cazzata, una cosa ovviamente che non si può dire perché troppa gente nel mondo ha sofferto e soffre ancora per razzismo. Credo che la Lazio e l'Ulic avrebbero fatto bene, ripeto, ad andare qualche minuto dopo, tanto era chiarissimo che quella frase lì non era una frase accettabile, subito a chiarire che non c'era un intento razzista, ma che era una frase uscita male, e questa cosa non è successa, questo è un dato di fatto, è successa 16 ore dopo, è successa in delle forme e dei modi che potevano essere un pochino più chiari e un pochino più precisi, e poi adesso vedremo. Io però penso che la fattispecie che verrà scelta dal giudice non sarà quella del razzismo, quindi non parleremo di 10 giornate, ma parleremo invece di una squalifica pesante, ma non così pesante, per l'offesa al famoso articolo 11, che è quello della discriminante, secondo me non verrà applicato. Sì, adesso sentiamo cosa ne pensi invece il dottor Crosetti, che ieri ho citato e che ha scritto che 3 righe di scuse sono pari al numero dei neuroni funzionanti di chi le fa. Ma intanto vorrei dire che Pierluigi Pardo è un romano fancazzista di merda, naturalmente. Tu Carlo sei lombardo? Io sì. Di Pavia, Pavese. Di Pavia, Pavese, sì. Ah, si mangia polenta leghista di merda, esatto. Sì, anche tu, sì, intanto non è razzismo. No. Cosa vuoi che ti dica? C'erano stati segnali, dopodiché la Procura Federale non è Tavecchio e va bene, però c'erano stati segnali ci sono segnali di attenzione maggiore, anche di impegno, c'è Fiona May all'interno della Federcalcio, si sono fatte iniziative contro la discriminazione, contro il razzismo, un problema che sta crescendo moltissimo nel calcio giovanile. L'anno scorso mi pare una quindicina di episodi tra ragazzi di razzismo in campo. Ebbene, se nemmeno un episodio con quello di lui, senza fare i colpevolisti a tutti i costi, ma se non è razzismo quello, allora uno che cosa deve fare per essere visto e anche punito come razzista in campo? Cosa deve fare più di questo? E poi chiedere scusa, sì, ma quante volte vi sarà capitato, attraversate la strada sulle strisce, c'è sempre il furbacchione che sta per mettervi sotto, poi alza la mano e dice, ah scusa, sì scusa, però intanto ammazzi e chiedi scusa, cioè. Non lo so, adesso il rischio è quello di girarla in cazzeggio, però non lo è affatto, un problema serissimo, drammaticamente serio questo. Tra l'altro, se proprio lo sport, che è il luogo, dovrebbe essere il luogo della tolleranza, no? della cacciata di chi è razzista, di chi è intollerante, in un momento in cui purtroppo gli ultra non mancano da nessuna parte, no? Pensate solo nella politica, quanti ultra razzisti che cavalcano addirittura queste idee per ottenere dei voti, posizioni ahimè rese più solide non per girare in politica, ma pur detto, dopo il referendum, dopo il risultato del referendum, sarà più facile ai populisti e ai razzisti urlare di più. Ebbene, in un'Italia del genere per fortuna piena di integrazioni vere, basta andare nelle scuole elementari, negli asili. Non è razzismo dire a un giocatore di colore che vendeva le cinture? Sì, no, ieri c'è stato questo dibattito che è stato detto non perché era di colore, ma perché da uno, questa posizione di Cruciani, che ha diritto di tenersi la sua. Penso anch'io, però indubbiamente non è stato detto perché era di colore, ma perché era detta nei confronti di un parvenu che non contava nulla. Sì, esatto, io continuo a pensare che fosse quella, però appunto per questo credo che ci sia stato un errore di mancata comunicazione. Io l'altro giorno ero all'Olimpico, sono sceso in zona mista perché mi diverte sempre, mi piace sempre, ovviamente se ho un po' di tempo sentire le interviste, vivere un po', parlare con i colleghi eccetera, e questa cosa era ovvio dopo 5 minuti che era successa questa frase, non c'era un dubbio sul fatto che fosse il caso, e quindi questo è il vero tema, insomma. Nel senso che lì bisogna intervenire subito, se c'è realmente la buona fede. Io sono, ripeto, portato a pensare che fosse una frase completamente sbagliata, ma che volesse dire quello, cioè volesse dire mi sta veramente sulle palle, ma chi si crede di essere, questo tizio di altri mesi fa non era nessuno. Però detta con quell'espressione lì, ovviamente poteva generare il dubbio, più che plausibile, più che legittimo, che fosse invece una roba razzista. E allora perché non si è intervenuto subito? Io capisco i nervi, l'adrenalina, non è facile, i giocatori andare lì a spiegare. Ecco, perché secondo me se qualche minuto dopo Lulic si fosse presentato spontaneamente e avesse detto ragazzi ho detto una roba che poteva sembrare assolutamente, sì, ci tengo a precisare, però, oltretutto Lulic viene da un paese che ha vissuto dei drammi, sulla sua pelle, no? Il dramma della... questo è chiaro, ma quindi, ieri è stato fatto un parallelo tra... Adesso non voglio stare a pesare lo sterco, però è stato fatto un parallelo tra la frase di Lulic dopo partita in giacca e cravatta e l'insulto a sfondo razziale di De Rossi a Mandzukic. Non voglio, ripeto, mettere sulla bilancia lo sterco, però secondo me sono situazioni differenti. Sicuramente, no. Sicuramente, e secondo me sono differenti anche, lo diceva ieri sera Santo Sabatini, una dichiarazione come quella in un post partita con la telecamera, con un calciatore che comunque dovrebbe essere abituato a sapere che ovviamente in quel momento lì sta in diretta, e quella frase assolutamente ricevibile, pazzesca, della guerra etnica, che abbiamo visto però rubata da un telefonino durante, no, quindi una cosa diversa lì. Io sono convinto, sono straconvinto, voglio sperare che quel tifoso lì che ha detto guerra etnica non voglia nessuna guerra etnica, e secondo me avrà tifoso, che questa è una cosa inconcepibile in generale, che il tifoso arringhi una squadra, è una roba che a me manda fuori di testa. Questo però è un altro tema e sono d'accordo. C'era anche stato Crosetti, Crosetti, qui sto per fare la domanda, De Rossi che aveva detto a Mandzukic, Zingaro, eccetera, eccetera, eccetera, in campo. Io credo che... ovviamente qui si rischi di fare un po' la punta ai chiodi, no? Come dicevano i vecchi. La punta ai chiodi. Però non c'è dubbio che la differenza tra la trance agonistica durante una gara e le parole, anche se molto a caldo, perché queste interviste, certo, tra l'altro sono una manna per chi paga tra l'altro un sacco di soldi, in questo caso Mediaset Premium, qualche altra volta in passato era toccata a Sky, insomma tu hai i primissimi diritti, che sono anche i diritti di mettere sotto il naso un microfono a una persona che ancora non è evidentemente abbastanza lucida, bollita, abbastanza lucida, anche se poi, come diceva Pierluigi, sono personaggi che tutti i giorni hanno microfoni sotto il naso e che conoscono spesso anche troppo bene l'arte del non dire nulla, che questo è il contrario, ed è però sempre meglio che essere razzisti. Però quante volte facciamo una fatica terribile a farli uscire e a uscire noi stessi dalle banalità del pre e post partita. Il durante la partita, quello è un territorio, secondo me, neutro, diverso, dove non puoi cercare con un labiale. È anche vero però che spesso quando scappa una cosa, cioè la pipì ti scappa perché la vescica è piena, scusate l'aulica metafora, se ti scappano certe parole, secondo me dentro di te abitano, magari in cantina, ok, magari in soffitta, ok, però io non penso che se non abitano dentro di te certe idee poi improvvisamente ti vengono fuori quando sei in trance. E questo è un problema forse psicanalitico, ma è anche etico, perché sì, stiamo parlando di persone che parlano a tante altre persone. Maurizio, ti faccio ancora una domanda che non riguarda questo, riguarda una cosa che aveva detto prima Pardo a proposito dei tifosi della Juventus che potrebbero fare il tifo contro Napoli stasera per ragioni economiche, e giustamente Pierluigi dice Ma chi è che l'ha detto? I tifosi vanno i commercialisti? De Rossi, no, stesso, no? Credo forse De Rossi, sì. De Rossi. Cioè, dire, se un tifoso della Juve ha voglia di occupare il Napoli perché il suo cuore gli dice che il Napoli gli sta antipatico, ha pienamente diritto di farlo. Che si metta lì a fare i calcoli e i ragionamenti per capire poi questo però ci sta anche perché poi il calcio di oggi è basato anche sui fatturati, però insomma un po' più cervellotico, togli la ragione e lasciami sognare in pace, direbbe Bersani, non sì. Il politico ma il cantante, sì, quindi sì. Che si tifi o che si gufi, ma insomma seguendo più il cuore della partita IVA, ecco. Che dici, Cross? Beh sì, la partita di calcio e la partita IVA qualche volta si incrociano. Questa volta c'è il paradosso per cui per il regolamento UEFA i soldi che sarebbero, che spetteranno alle italiane, residue, se l'italiana è una sola, e la Juve si pappa anche la paghetta del Napoli, come quando mia figlia più grande è andata a vivere col fidanzato, maledetta lei, e la sua paghetta la paghetta della figlia più piccola, grazie. E l'ha presa benissimo, bastardo lui, la paghetta della figlia più piccola, sto scherzando Nino caro, la paghetta della figlia più piccola non è raddoppiata, ahimè, mi piace per Eugenia, perché a casa nostra non vige il regolamento UEFA, quindi non so se sia così giusto, se sia poi così giusto se il Napoli esce i soldi al Napoli se li becca la Juve, questo secondo me non è giusto, anche secondo me distribuirli alle federazioni più povere, dai, facciamo un po' di populismo no, secondo me invece immetterli nel montepremi finale perché anche sì, perché sai Maurizio, questa cosa dei paesi più poveri, adesso non dirmi che sono razzista, padano e tutto quello che vuoi. Beh, però un po' sì, comunque un po' sì, tanto non è razzismo, no. Ma quello che diciamo io e Pardo è che di questa Champions League allargata con le squadre che fanno 0 punti e prendono 1000 gol segnandone quello è stata la campagna elettorale del signor Platini, e chiamalo scemo anche se poi è inciampato nel fantasma dell'armadio, però l'idea sua era che i voti in questo caso, come quasi sempre peraltro, non si pesano ma si contano, come sa bene il nostro ex premier. Sì, poi dipende. Quindi, dalle matite. Siccome si contano, poi dipende dalle matite, dai. Una trece per Platini per Blatter, per le matite, per tutti noi, per Lulic, per la procura federale. Ciao Maurizio, grazie. Ciao ragazzi. Sempre bellissimo Maurizio Crosetti. Allora 800240024, io e Pierluigi Pardo vi aspettiamo dopo la borsa. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, dato che non siamo qui a pettinare le bambole e nemmeno a smacchiare i panda, sì. Le schedine, come va? Contano. Giorgio De Luca, come va? Pier è il notaio. Alla grande, alla è il notaio. Beh, allora, ha fatto 7 Pierluigi Pardo, quindi ha migliorato se stesso rispetto all'ultima volta che aveva fatto 5. Sì. Resta però non la migliore prestazione dell'anno, dove una volta ha fatto addirittura 8. Però c'è continuità. Però c'è continuità. Vogliamo dire che cosa hai sbagliato? Vabbè, detto del derby, che tutti avevano detto che la Lazio era favorita, hai sbagliato ancora il Napoli. Per questo, Boris ti ha chiesto di dire che perdiamo. E detto X, sì, perché c'è un filone che parte da Udine, non so se ti ricordi, no? Sì, è vero, due volte il Napoli. Okay. Io il Napoli c'è stato un periodo che l'anno scorso che forse l'ho anche un po' sopravvalutato, no? Una specie di profezia all'inizio della stagione, quando era in crisi, che avrebbe vinto lo scudetto. Andava molto bene nella prima parte, poi invece lo scudetto non l'ha vinto. Non svelerò di quella volta che mi hai telefonato e mi hai detto il Napoli vincerà. Io invece adesso svelo il pronostico di Belinazzo che mi ha raggiunto in studio, quindi su questa sera. Eccoci qua, buon pomeriggio. Così impara. Non faccio pronostici, è noto in tutti gli ambienti. Ha detto, sai cosa ha detto? Vinciamo 4-1. Sai, Belinazzo, ogni dichiarazione di Belinazzo a borse aperte può creare. Tra l'altro, in questo momento c'è il titolo del Benfica, alla borsa portoghese crolla. Senti, ma parliamo di partita di calcio o di partita IVA? Magari anche di partita IVA. Ragazzi, quanto si gioca in termini economici in Napoli a Lisbona? Primo, abbiamo scherzucchiato un po', no? Con Pardo e con Crosetti, dicendo ok, sì, i tifosi juventini possono fare tifo contro il Napoli, ma magari per questioni di agonismo e di antipatia, ma magari senza pensare alla partita IVA e a quanto. Beh, invece c'è anche questo aspetto, per quel complicato meccanismo del market pool. Vedi com'è. Di fatto chi va più avanti rispetto all'altra delle due italiane prende più soldi. L'anno scorso sul market pool Juve e Roma sono uscite agli ottavi tutte e due, e la Juve ha preso solo 5 milioni in più, 53 sì, contro 48, perché appunto hanno fatto lo stesso cammino e la Juve era arrivata prima in campionato e quindi aveva questo piccolo vantaggio. È chiaro che se la Juve fosse arrivata più avanti avrebbe preso più soldi a discapito della Roma, per cui c'è anche questo ragionamento. Certo. Il Napoli, oltre quindi a questo ragionamento intorno al market pool, deve anche considerare che ci sono in ballo direttamente circa 9 milioni, perché l'accesso agli ottavi vale 6 milioni, più il match di ottavi che per incassi va tutta la squadra che organizza, che vale circa 3 milioni, insomma. Parliamo quindi di 9 milioni che si perderebbero invece non passando il turno. Sì. Per cui, insomma, tanti soldi su cui fare affidamento per il futuro o non affidamento. Facciamo così, io volevo chiederti, visto che tu conosci tutto il mondo, facciamo un referendum, facciamo che i soldi che non vanno alla non qualificata vengano distribuiti tra i giornalisti che ne parlano tutti i giorni. Bella, mi piace. Ti piace? No, invece io volevo fare una roba proprio un po' da reddito di cittadinanza. Io trovo che questo meccanismo, che è il meccanismo che c'è a livello UEFA, che c'è a livello di campionati, che c'è ovunque, alla lunga sia un problema. Cioè, io credo che la grande differenza, accennavamo ieri quando parlavamo di sport americani, la grande differenza che esiste fra l'Europa e gli sport americani sia proprio questa, e io non sono tanto d'accordo, nel senso che la famosa frase vincere aiuta a vincere a livello economico è verissima, e alla lunga io temo che porti a un po' di noia. Sono d'accordo. Il tema è complesso e francamente assolutamente consideriamo che per esempio la Premier, che è la più ricca, sull'ambito dei diritti TV ha i meccanismi più democratici, diciamo più paritari di distribuzione, e proprio notizia di alcuni giorni fa, la Bundesliga ha rivisto i criteri dalla prossima stagione di ripartizione delle risorse, e una parte importante, superiore al 20% e finora veniva assegnato alla Serie B, andrà appunto alle squadre della serie cadetta tedesca, con dei meccanismi molto, molto complessi, insomma. Ne ho scritto oggi su Calcio e Business, quindi chi è appassionato può andarsene a leggere, ma il senso è: bisogna dare più soldi a tutte le squadre per far crescere tutte le squadre, far crescere la competitività del numero maggiore di club, perché altrimenti alla lunga l'appeal del torneo viene meno. Questo è evidente. E gli sport americani sono cresciuti intorno a questo principio. Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Complimenti, grazie come sempre, siete unici, saluti grazie a tutti allo studio. Senta, orologio alla mano, giusto un minuto per uscire un po' fuori dall'argomento, se mi consentite di parlare un attimo dell'Inter, qua giusto un minuto. Ma no? Come perché... no, ne parliamo anche più tardi, peraltro, per la sì, cronaca. Grazie, perché quando all'Inter fanno parlare pure Ranocchia, colui il quale qualche anno fa nemmeno una rimessa laterale ha avuto il coraggio di fare, che forse i Puccini... Alle scuole calcio ai Puccini insegnano le prime cose, cioè parla pure Ranocchia. Per dire che all'Inter, come diceva il buon Lippi qualche anno fa, io penso che non vanno presi a calci nel sedere, perché altrimenti non sentono dolore, ma alla faccia del razzismo li prenderei a calci in faccia, ma con le scarpette quelle che giocano loro la domenica, adesso, quelle là con i chiodetti sotto. Vabbè, ma adesso questi partiti vanno in batter, dai. Lasciamo stare, Roberto. No. non lo so se è no, questo il punto. Posso essere molto simpatico, ma questo è irricevibile. No, assolutamente no, prendere a calci in faccia è irricevibile. E quanto a Ranocchia è un giocatore che gode di una pessima opinione pubblica a Milano, tanto che mi auguro che, pur essendo secondo me un buon giocatore, mi auguro che abbandoni la piazza, diciamo. Sì, nasce come un buon giocatore, nella famosa coppia centrale del Bari di Ventura con Bonucci, praticamente dello stesso livello di Bonucci. Poi prendono due strade completamente diverse, e in parte dovute sicuramente alle loro qualità, tanto che Bonucci ha dimostrato di sapersi migliorare tantissimo in questi anni e Ranocchia no, in parte secondo me anche al contesto dove vanno a giocare, alle situazioni tattiche, agli allenatori. Quindi no, non voglio fare il sociologo, no? Uno che giustifica tutto, perché non è sempre colpa dell'ambiente o del contesto, però io credo che Ranocchia sicuramente in altri tipi di situazioni si sarebbe trovato meglio. Poi ci sono le sue responsabilità che sono evidenti, secondo me una certa fragilità caratteriale. Detto questo, insomma, che possa parlare Ranocchia ci mancherebbe altro, insomma, non è che non ci mancherebbe altro, se uno ha sbagliato una diversa non può parlare. Allora ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, sentiamo Simão da Modena e poi parliamo. Mancavano i Football Leaks. Dopo WikiLeaks, adesso abbiamo i Football Leaks. Non ci lasciamo mai nulla alle spalle. No, tra poco mi spieghi che cosa sono e che cosa sembra saltare fuori da questi Football Leaks. Simão, buongiorno. Buongiorno. Ho pronunciato bene? Simão. Sarebbe Simão, è di origine brasiliana, ma sono modenese. Sì, va bene. Allora, avevo chiamato per parlare prima, avevo provato a chiamare per la frase di Lulic. Nel senso, io faccio parte di quelli che purtroppo nella vita hanno subito delle discriminazioni perché sono, insomma, diciamo, ho melanina in quantità. Quindi, io volevo dire che io non credo molto, soprattutto in un'intervista post gara, nella buona fede o nella, diciamo, ingenuità delle persone, soprattutto persone che vivono in questo mondo e non su Marte, nel senso, cioè, cosa magari si può dire o non si può dire, diciamo, su un giocatore o su una persona nera. Lo sappiamo tutti cosa è sconveniente e cosa non è sconveniente, secondo me, soprattutto una persona magari che d'esperienza, una persona, un uomo adulto come può essere Lulic. Quindi io credo che lui, quando dice quelle parole lì, le dice, magari le dice arrabbiato, cioè non dico di no, però le dice consapevole di andare ad infierire su uno stereotipo, sapendo che, dove va a colpire, insomma. Esattamente, sì, io sono abbastanza sicuro, ma anche le offese in campo, nel senso, io nel mio piccolo ho giocato a calcio e nel senso mi sono sentito dire di tutto, quando però magari una madre, una sorella, ma sicuramente una madre da offendere, volendo ce l'abbiamo tutti, però certo, si va sempre a parare lì. Sì, nel senso, sì, secondo, sì, me, sì. Questo... secondo me motivi per offendere, cioè modi di offendere le persone ce ne sono tantissimi, però proprio quelli secondo me si vanno a scegliere. Sì, anche se rimango dell'idea espressa prima anche da Maurizio Crosetti, distinguerei il campo dalla zona mista. Dal dopo, certo. Dalla zona mista. Football Leaks, cosa sono questi Football Leaks? Parlo, cosa ne sai dei Football Leaks? Beh, è una bella domanda, cosa che è diventato argomento anche di discussione al bar, quella dell'elusione fiscale, perché i calciatori e gli allenatori, anche di grande livello, a quanto pare viaggiano sul filo dell'elusione fiscale, o per meglio dire consigliati dai loro agenti. E Football Leaks è questo immenso archivio informatico che è stato trafugato dalla solita fonte anonima, che poi l'ha passato a un consorzio di giornali, tra cui l'Espresso in Italia, che ci sta svelando un po' di queste pratiche. Fondamentalmente i filoni sono due: uno appunto è quello del nero, che veniva pagato soprattutto per lo sfruttamento dei diritti d'immagine su società offshore create dai calciatori stessi, Cristiano Ronaldo, Higuaín, da allenatori come Mourinho. L'altro filone è quello dei fondi di investimento, delle cosiddette TPO, Third Party Ownership, cioè il fatto che un soggetto che non fosse un club avesse la proprietà di una quota del cartellino. Sappiamo che queste pratiche sono vietate formalmente dalla UEFA a partire dal 1 maggio del 2015, e ci sono però tante storie. Bisognerà capire se effettivamente questi contratti, questo tipo di clausole, sono state apposte prima o dopo questo divieto, per pensare ad eventuali ripercussioni divertenti, ecco. Tipo un bonus da 1 milione di sterline per Balotelli se mantiene un comportamento irreprensibile, niente sputi, comportamenti violenti o condotta illecita nel quello, contratto firmato con quello il Liverpool. Ce l'ho anch'io nel mio contratto col Sole, se mi comporto bene 1 milione, sì, anche Pardo ce l'ha nei suoi vari contratti, ma non riesco mai a beccare il bonus. Senti, tu prendi $57 al minuto. Pardo? $7 al minuto, quanti sono? Tanti. Sono hai due cose. Vabbè, 1000 euro l'ora più o meno. Sì. Beh, insomma, sarebbe male, più un cuoco a disposizione. Questo capita a cuoco a disposizione sarebbe comodo, in effetti. Cuoco a disposizione sarebbe comodo. Beh, sono tutte queste storie, sai. Ora bisognerà capire. Questo capita alla Vezzi, dicevo, appunto. Questo è Vezzi, è capitato anche molto altro, insomma. Molto, ma... molto, moltissimo altro. No, ragazzi, andiamo un po' di corsa, perché ho ancora 2 minuti e volevo parlare di sto benedetto closing del Milan, spostato di nuovo, Caparra da 100 milioni, chi farà il mercato a gennaio. C'è ancora carne sul fuoco per i prossimi mesi, c'è tanto divertimento. Beh, è accaduto quello che più o meno poi era nell'aria, anche se non è stato ancora formalizzato, insomma se ne parlerà tra gennaio e febbraio. La Fininvest chiederà una extra caparra da 100 milioni, quindi 100 più 100 fanno 200 milioni, che sono sui conti Fininvest, e dovrebbe essere stata anche svelata un po' la lista, perlomeno a Fininvest, dei soggetti che al momento sono interessati. Ci dovrebbero essere, oltre a quelli noti, insomma, già due municipalità, quindi due province cinesi, che hanno messo dei soldi. C'è una finanziaria che si chiama Warong, che dipende dal governo cinese, più vabbè, i soliti Aisha e Li Yonggong, che ormai sono diventati un po'. A me viene in mente un gigantesco collettone da collettone. Cioè, girano col cesto e raccattano denaro. No, per intanto però non è anche tu questa immagine. Sono un sacco di soldi, a lui non tocca niente, no? Pierluigi, confermo. No, assolutamente. Però questa cosa delle prefetture, delle municipalità che comprano la scuola di calcio è un'altra roba. Insomma, una volta c'era un presidente, adesso ci sarà il sindaco che avrà la sua quota parte di una scuola di calcio, ma è normale, non è normale. Lo dico con rispetto, ma sono tempi moderni, mi verrebbe a dire, no? Molto moderni. Qui c'è un fondo che avrà, diciamo, dei rappresentanti che si interfacceranno con il management, e in questo fondo ci saranno soggetti che investono, che sperano di fare degli utili, che poi magari venderanno la loro quota, poi magari si andrà in borsa. Insomma, è il nuovo mondo, devo dire, è tutto molto in bilico, tutto ancora abbastanza confuso. Non c'è il rischio che sia un po' troppo spezzettato? È esattamente questo. Non è molto diverso da una normale società quotata in borsa, no? Poi l'azionariato di tutto. Sì. Sì, dipenderà bene poi da capire come sarà composto questo fondo, quali saranno le regole di funzionamento, quando ci si potrà sganciare, a quali condizioni, ecco. Dobbiamo però immaginare qualcosa di completamente diverso, cioè, ecco, se prendiamo l'esempio sull'altra sponda di Milano, Inter, è qualcosa di completamente diverso. Diverso. C'è un progetto industriale, di un progetto finanziario. Magari è anche una nouvelle vague che si estenderà in tutto il mondo. Io vi ringrazio, grazie Pierluigi, sentiamo domani, grazie a Marco, grazie a voi, ci sentiamo molto presto, ci fermiamo per il traffico, torniamo dopo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. Convocati. Primo, ho lanciato il traffico, me ne scuso, c'era ovviamente il GR, però con insomma c'era un traffico di informazioni, di Football Leaks e di cose, per cui ho fatto un po' di confusione, mi scuso. Domenico e Pietro invece sono due convocati in linea. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Niente, volevo riprendere un attimino, prima stavate parlando di Ranocchia, il percorso di Ranocchia, di Bonucci. Sì. Beh, io alcuni giorni fa, mi sembra sul sito della Gazzetta, c'era una classifica di difensori italiani e Franco Baresi veniva messo dietro Bonucci, volevo un vostro parere. E poi sul closing del Milan, sì, se ne parla, però tutti quanti sembra che sanno che cosa dovrebbe avvenire, però non lo dite. Come se fosse una cosa che sapete, però dico, ragazzi, io diciamo tutto quello che sappiamo. Forse il problema sta nel fatto che non lo sanno nemmeno loro signori. Cioè, quello che. Perché non dovremmo dirlo? Scusi, Domenico. Sono notizie. Domenico, sono notizie. Sono notizie. Insomma, ogni giorno ne parla Berlusconi, noi ci limitiamo a riportare e. Soprattutto uno come Marco Berinazzo, che lavora solo le 24 ore e che lavora ogni giorno su queste cose, perché non dovrebbe dirle o scriverle, anzi sarebbe un grande scoop. La situazione è questa, è quella che abbiamo delineato, quindi c'è una richiesta di una nuova caparra e non sono quattro noccioline ma 100 milioni di euro e verrà posticipato il closing. Poi se succederà qualcosa di nuovo state tranquilli che ve lo diremo. Quanto al resto mi sembrano fregnacce, perché io sono già contrario ai confronti epocali, poi fare una classifica dove non so chi l'ha fatta, dove Bonucci sta davanti a Franco Baresi tra i difensori italiani eccetera eccetera, ripeto, sono abbastanza contrario ai confronti epocali, che sono giochini da bar, e in questo caso mi sembra un risultato comunque discutibile, facciamo così. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo, tifoso della Roma, volevo parlare un attimino di Lulic velocemente. Contento del risultato del campo, tre dichiarazioni, forse squalifica, quello che si vuole, ma se pensa a quello che dicevano al ministro Chieng quando era ministro dell'Italia, i nostri politici, penso che veramente quello che ha detto Lulic forse si può mettere la punta nel campo degli sbagli, ma quello che dicevano i nostri politici al ministro, cioè lì veramente, sì, quello è il vero razzismo. Guardi, ne abbiamo sentite di tutti i colori, abbiamo visto chi puliva i seggiolini dei treni dove si sedevano quelli di colore, non... Mi viene quasi da dire che il calcio è uno spaccato della politica, oppure il contrario. Dovrei chiedere a Cruciani come la pensa. Però viviamo purtroppo in questa società, quindi è inutile in questo caso fare le liste dei buoni e dei cattivi, ognuno di noi ha una coscienza e sulla base di quella si comporta. Ciao Evaristo Beccalossi, come stai? Buongiorno, ciao a tutti. Il nerazzurro è sempre di moda e sono di moda anche i calzini e le cinture, caro Evaristo. Mi sembra che l'Inter assomigli a uno vestito abbastanza bene ma con i calzini spaiati. È un momento duro, però nelle difficoltà è dove veramente puoi anche gettare le basi per costruire qualcosa di importante, perché insomma il calcio ti fa parlare tanto, ogni settimana si cambiano valutazioni. Credo che all'inizio di questo campionato tutti sottolineavano che la rosa dell'Inter era forse seconda solo alla Juventus, quindi lo pensavo anch'io, quantomeno che fosse sulla linea di Napoli a Roma, sì, eh. Poi dopo c'è sempre il campo, quindi in questo momento il lavoro anche di Pioli sarà, secondo me, visto l'andamento di questo periodo, trovare la giusta quadra, la giusta... Però Beck, non cominci a pensarla anche tu un po' come ha scritto ad esempio ieri Sconcerti, cioè una squadra di buoni giocatori, ognuno dei quali però non si combina con l'altro, cioè una squadra fondamentalmente di buoni giocatori ma mal assortita, mal costruita, una squadra in cui manca... Comunque Sconcerti scrive un capo comico, io dico un leader in campo, questa è un po' la sensazione che io ho. Sì, ma è una sensazione che abbiamo, nel senso che magari ci sono buonissimi giocatori, però si fa fatica a metterli insieme, a farli ragionare da squadra, magari due o tre che dovrebbero prendere in mano la situazione, e queste sono state le difficoltà che sono venute fuori cammin facendo, però è anche vero che non, cioè io non me la sento in questo momento, cioè, di dire cose, rifondazioni, no, bisogna essere lucidi e chi è lì tutti i giorni come, come Pioli che si è trovato in una situazione così deve trovare a livello tattico, perché abbiamo provato con 4-2-3-1, 4-3-3, cioè quindi secondo me con lucidità vedere qual è la strada migliore per cercare di risalire, perché la posizione del Inter sicuramente non è questa. No, ma è chiaro, questo è chiaro. Secondo te è fuori da discorsi di Champions a presto? Ma questo secondo me non dobbiamo pensare a niente. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio di squadra, farli muovere da squadra, corti, sacrificio, e poi dopo si tireranno le somme. Perché, ti ripeto, la società ha investito tantissimo, quindi bisogna trovare la strada giusta e creare le premesse per andare a fare un risultato positivo. Intanto si vive anche di sogni. Uno di questi è Simeone, che sentiamo, e risponde Zanetti. Así que imagínate si hablo, creo que es normal que mi hijo, mi hermana, mi mujer, mi papá sepan de que algún día voy a dirigir al Inter. Así que no es noticia y no es novedad. Saluterò Giovanni perché lo conosco da bambino, l'ho visto crescere. E adesso domenica lo affrontiamo e spero che non faccia nessun scherzo. Quello che accadrà in futuro, chi lo sa? Noi ci concentriamo sul presente. Il presente vuol dire Mister Pioli, vuoi essere vicino a lui, cercare di rimediare e di tentare di poter arrivare più alto possibile. Il futuro non lo sa nessuno. Futuro non lo sa nessuno, però intanto il ciò lo dice, se lo dice mia moglie, lo dice mio figlio, lo dice mio papà, lo dice mia mamma, lo dice mia zia, lo dice mio suocero, lo dice mio nipote e lo dice anche qualcuno che non mi conosce, un giorno allenerò l'Inter. Ho capito, ma se tu fai l'appello di chi gli piacerebbe allenare l'Inter, c'è una lista di tantissimi, cioè è chiaro che Simeone l'ha sempre dichiarato che prima o poi tornerà all'Inter, però in questo momento mi sembra giusto andare avanti e concentrarsi sul lavoro di Pioli. Non mi piace, cioè adesso Pioli deve riportarsi su in classifica, poi il futuro, cioè l'ha detto il vicepresidente Zanetti, l'ha detto, cioè il futuro non lo sa nessuno, perché io ti faccio la domanda: se questa rincorsa va bene, che Pioli va bene, perché parlare del futuro? Guardiamo in questo momento di uscire da questa posizione che non è quella da niente. Senti, mi spieghi lo psicodramma di Ranocchia, perché ieri, prima, pochi minuti fa, ha chiamato l'ascoltatore, ma questo qua va perfino a battere le rimesse laterali e poi ha il coraggio di parlare. Insomma, tu hai vissuto quello stadio con quella maglia dall'altra parte, cioè da idolo incontrastato delle folle. Giocare a San Siro. Sono capotato anch'io qualche volta perché ho sbagliato due rigori, però sì, bazzeccole. Però ho un ottimo ricordo. Cioè, sì. Insomma, però giocare in quello stadio, quando giochi in quello stadio, il pallone è davvero pesante. In questo momento, Ranocchia è lo zimbello di San Siro. È il giocatore che a San Siro non può mettere piede perché sennò prende dei fischi. Sì. Credo che qualcuno magari, cioè, sicuramente anche lui deve levare, però non è il massimo dei responsabili, cioè c'è qualcuno che magari, solo che si è anche un po' prevenuti secondo me nei confronti di Andrea, quindi in quei casi lì bisogna cercare di lavorare in silenzio e trovare con la squadra, perché da solo noi a volte ci dimentichiamo, se la squadra cresce anche il singolo riesce a crescere e a dare un qualcosa in più. In questo momento noi dobbiamo ragionare da squadra e dobbiamo, ti ripeto, ripartire, perché cioè o eravamo impazziti tutti all'inizio del campionato che dicevamo che avevamo un'ottima una buonissima rosa, e io non ci credo che la posizione di classifica sia questa, quindi no, umiltà e ripartire. Umiltà e ripartire, non so se da Condombia o no, questo ragazzo l'Inter non ha mai convinto, diciamoci la verità. Adesso è incedibile, nel senso che se lo vendi ora fai una minusvalenza che ti ammazza, però sì. Onestamente non riusciamo a capire che tipo di giocatore sia. Lo so, non l'abbiamo ancora visto, lo so che lo volevano in parecchi, quindi anche lì se la squadra andasse bene sicuramente aiuterebbe anche il recupero di certi giocatori, però la mia linea in questo momento è che tutti devono tirare una riga cercare di tirar fuori il meglio delle caratteristiche di ogni giocatore. Grazie Beck, ci ciao, sentiamo presto, buon lavoro, ciao, ti grazie, abbraccio, ciao Evaristo. Allora, ripartiamo con Damiano da Monza, altro convocato, 800 24 00 24, il numero verde. Buongiorno Damiano. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io sono uno spettatore sempre silente, che ascolto, che oggi silente. Ho bisogno di intervenire perché... ho già avevo voglia di parlare, ha fatto benissimo. Una questione da chiedere, visto che voi siete esperti, molte volte sento parlare di calcio e finanza, e mi chiedo per quale motivo i dirigenti italiani, o magari non è assolutamente neanche possibile, non intervengono a livello di UEFA per avere una sorta di bonus per le sperequazioni fiscali, sapendo benissimo che quando le italiane vincono o comunque vanno avanti, comunque avranno un bonus che poi è spendibile sul mercato e al netto di quello che è la fiscalità di ogni paese. Sì, non ha senso poi intervenire nella società dando il fair play finanziario, quindi reprimendole, quando poi comunque fiscalmente vengono punite. Questo è un discorso che parte da molto lontano, che parte dalle leggi spagnole che poi sono cambiate. Io una risposta in tasca non ce l'ho, magari ce l'ha Berinazzo, ce la faremo dare prossimamente, però il fatto è che l'UEFA comunque distribuisce questi denari. Poi la fiscalità di ogni paese dipende per l'appunto dal singolo paese. Quello che sorprende è che nella maggior parte dei grandi paesi calcistici ci sono comunque, a prescindere dalla fiscalità, delle squadre egemoni che vanno a vincere i rispettivi campionati in Spagna, come normalmente in Germania, poi vediamo cosa fa l'Ipsia. Come normalmente in Francia, poi vediamo che cosa fa il Nizza, però ormai da anni si verifica questa situazione, al di là della fiscalità che c'è nel singolo paese, si verifica questa situazione per cui ci sono c'è un'elite molto ricca e poi dall'altra c'è appunto quel che resta in fondo al cesto. Saluto e ringrazio Flavio Vanetti, avevamo un appuntamento anche ieri e mi scuso pubblicamente perché si è incasinata la scaletta. Ciao Flavio. Ciao, sei scusato ampiamente. Ti ringrazio. Io volevo fare un paio di discorsi con te, uno relativo al basket e l'altro relativo alla Formula 1, perché sono su entrambi i fronti curioso di conoscere la tua opinione. Partiamo dalla cronaca più fresca. Forse è la prima volta che nello sport, invece di licenziare un allenatore, licenzi una stella. E mi riferisco ad Alessandro Gentile, che verrà ceduto da Milano, da capitano, da simbolo, da giocatore su cui costruire il futuro, a giocatore che non è più desiderabile. In questo caso la mia sensazione da fuori è che abbia vinto Jasmine Repesa. Beh, sicuramente è una vicenda un po' contorta e anche effettivamente, come hai detto tu, atipica. Io credo che alla base di tutto ci sia un vizio iniziale. La questione con Gentile era da chiudere subito, nel senso che quando è venuto alla galla questo disagio del giocatore, peraltro legittimo, perché può anche essere che uno non si trovi più bene in un ambiente, in una squadra, e l'ha manifestato proprio nel momento in cui ha vinto lo scudetto, quindi anche un momento un po' particolare che sarebbe stato gioia in teoria. Ecco, lì non credo non ci fossero proprio più i presupposti per proseguire. Si è voluto tentare di andare avanti, ma è evidente che qualcosa si era rotto e penso che adesso questa sia un po' la classica situazione che si chiude la porta della stalla quando i boss sono scappati. Sì. Patatrack mediatico era già stato combinato, quindi che abbia ragione Repesa, abbia ragione Gentile, comunque sicuramente non sposta molto i termini del discorso. Ma certo, è chiaro che la società ha fatto una scelta, ha scelto l'allenatore, questo è evidente. Se poi se è una scelta giusta, questo lo dirà il resto della stagione. Ma secondo te non ha qualche colpa anche Jasmine Repesa, che ha riportato lo scudetto a Milano, la Coppa Italia? Insomma, in questa stagione io lascerei perdere il campionato italiano, che è qualcosa di diverso, vale questo discorso nel basket come nel calcio, il discorso che facevo prima, troppo forte comunque l'Armani per i competitors. Però a livello europeo, sinceramente, io mi aspettavo di più rispetto a quello che ho visto fin qui. Cioè, secondo me l'Armani viene dietro le 3-4 grandi favorite, le solite, CSKA, Barcellona, Real Madrid e Fenerbahce. Assolutamente sì, è chiaramente un'annata europea decisamente sottotono e non proporzionata e proporzionale a quelle che erano le ambizioni di partenza. In questo caso il metro di giudizio è molto semplice e crudo, i risultati, i numeri dicono che c'è un deficit dal punto di vista del saldo vittorie e sconfitte, ma soprattutto ci sono delle prove imbarazzanti, cioè delle partite già vinte o comunque sigillate come quella dei Bamberg che scappano di mano, la figuraccia fatta adesso a Kazan e se vogliamo anche la partita persa a Belgrado, con una caratteristica secondo me comune, questo oscillare della squadra, momenti buoni, con dei picchi anche di alto rendimento, poi dei crolli pazzeschi che sono dei crolli mentali. Poi certo ci sono delle scelte che non sono difficili anche da comprendere, si capisce perché a lungo sia stato tenuto fuori un Cinciarini che comunque aveva cominciato molto bene la stagione e non era certo il giocatore spento e in difficoltà che abbiamo visto nella precedente annata. Quindi tu dici anche Gelsomino, inteso come Repesa, qualche cosa a spiegare ce l'avrebbe, al di là di fare il fustigatore dei costumi, no? Alla fine che lo si faccia alla fine, perché poi alla fine i risultati si tirano, le somme si tirano effettivamente alla fine, quindi lui ha tutto il diritto di andare avanti con la sua stagione e fare le sue scelte, però poi dopo non potrà sfuggire a appunto a quello che è il risultato. Certo. Senti, invece sono curioso da storico scrittore, direi, di Formula 1, di conoscere la tua su Nico Rosberg, di cui abbiamo parlato ampiamente, ma non insieme, e volevo conoscere la tua opinione. Io, insomma, secondo me Rosberg in questo momento è uno dei miei idoli sportivi, perché ha avuto il coraggio di fare una cosa strana, impopolare, ma molto molto umana. Cioè, ho dato tutto, questa vittoria ha spremuto ogni tipo di energia dal mio cervello e dal mio corpo, non ce la faccio più, lascio stare. Concordo, è stato un unicum, tra l'altro, perché ripensavo proprio stamattina, uno come Michael Jordan ha fatto un passo del genere dopo tre titoli. Lui l'ha fatto nel momento in cui poteva essere all'inizio di un percorso di vittorie, e devo dire che di solito la vittoria ti genera degli stimoli, c'è il cosiddetto desiderio del back to back, di riprovarci, di confermarsi, è comunque una delle tante cose che animano. Però Flavio, da ragazzo intelligente ha capito, io dal mio compagno di squadra nelle prossime stagioni le prendo secche. Beh sì, può essere, io credo che comunque alla base ci sia anche un latente disagio di Nico nei confronti di Hamilton, non tanto del pilota, ma secondo me dello scenario, delle situazioni, penso che Hamilton sia un compagno piuttosto difficile, ingombrante, perché ha uno stile di vita opposto, perché comunque su ogni cosa mette i puntini sulle i, gli accenti, le virgole, e non è facile sicuramente gestire anche lo stress umano di stare a fianco, certo, di un pilota del genere, che oltretutto poi è anche sicuramente veloce, bravo, aggressivo, competitivo, e anche per dirla tutta anche un bel figlio di buona donna, perché si è visto quello che ha fatto. Certo. Devo dire, io non è che lo censuro tantissimo per quello che ha fatto ad Abu Dhabi, però sicuramente non è certo una manovra delle più cristalline, delle più belle, insomma prendi anche atto che una volta tanto puoi perdere, che c'è uno che ha fatto meglio di te, però per carità di Dio, e i cannibali sono fatti per mangiare il prossimo. Bravo, l'importante è adesso, e su questo mi sono trovato d'accordo con praticamente tutti, adesso che Nico non ci ripensi, perché io odio i back to back, cioè non i back to back nel senso di tornare a vincere, ma nel senso di tornare a correre, perché tu eri ricordato Michael Jordan, ha smesso per motivi che rimangono ancora un po' misteriosi dopo tre titoli, poi è tornato ma era ancora un giocatore pazzesco, certo. Però l'ultimo Michael Jordan con i Wizard era qualcosa patetico, di penoso, di patetico. E io spero che Nico non ci tradisca, cioè ha fatto una cosa grande, ripeto, unica, ha fatto una scelta di cuore, una scelta rivolta alla famiglia, una scelta veramente di vita, perché penso che abbia già un'idea di quello che potrebbe fare nel futuro. Mi auguro che non sia vittima anche lui di nostalgie e di voglia di tornare, anche perché la Formula 1 nel frattempo galopperà veloce e credo che poi davvero rischia anche lui di fare delle figure patetiche, per quanto non sia certo anziano, sono a 31 anni, anche un anno, due anni sabbatici potrebbe anche permettersi, in teoria l'ha fatto anche Lauda, ha dimostrato che comunque si può tornare a vincere anche dopo un periodo di stop, però ecco, sarebbe un po' macchiare una bella storia e lui ha secondo me la grandezza di averlo fatto in questo modo, di averlo fatto proprio nel momento da numero uno. Lui da può dire uno, io lascio da numero uno e nessuno mi ha battuto. Certo, e questo è veramente il valore aggiunto di questa decisione, peraltro non facile. Grazie Flavio, a presto. Grazie a voi. Grazie Flavio Vanetti, Corriere della Sera. Chiudo con Umberto Dall'Aquila, un minuto. Buongiorno Umberto. Buonasera. Dica. Volevo intervenire sull'Inter, sul discorso della rosa dell'Inter che continua ad essere osannata, essere... Io in realtà posso dire che per quello che ricordo dell'Inter dagli anni 90, quando non eravamo la grande Inter, non ho mai visto partite in cui i giocatori facevano delle ciabattate, almeno i fondamentali ai tempi le avevano. I giocatori sapevano muoversi, sapevano tirare, sapevano marcare, sapevano fare tutto. Io ho avuto modo di vedere stanotte Inter-Fiorentina. Beh, insomma, senza entrare troppo nel particolare, gli unici giocatori da Inter che possono essere considerati da grande Inter sono Handanovic, Perisic, Icardi, Eder, anche se non gioca, e Candreva. Poi il resto basta. Il resto proprio può militare benissimo, diciamo, nell'Empoli, nell'Atalanta. Non sarei così perentorio, perché per esempio uno come Miranda per anni ha dimostrato di essere un signor difensore centrale a livello europeo. Direi che probabilmente vale il discorso secondo cui l'Inter è una squadra in questo momento mal assortita. La stoffa c'è, il sarto è Pioli, vediamo che vestito riesce a combinare. In attesa dei sogni, naturalmente. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione, ci sentiamo domani. Ciao.